Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi parleremo soprattutto di fair play finanziario, di bilanci sempre più in rosso, proprio appunto a proposito di fair play, delle normative UEFA che sono partite ma stanno facendo molta fatica, non dico ad arrivare ma anche soltanto a farsi strada, e poi di steward, di tessere del tifoso. C'è un interessante richiamo all'ordine del garante della privacy nei confronti della tessera del tifoso come strumento, il che significa che molte delle perplessità che hanno accompagnato questa per me famigerata tessera, insomma, proprio così infondate non erano. Prima però c'è, in attesa, dando il tempo a Marco Bellinazzo, al nostro esperto del Sole 24 Ore, di scendere il piano di scale che da sole lo porta qui negli studi di Radio 24, ascoltiamo qualcosa di legato all'attualità di oggi, di stasera, della Coppa Italia, di domani, ma anche di questi giorni, a cominciare per esempio dal caso Totti. E c'è stato di nuovo proprio negli ultimi minuti, lo vedevo da un'ultima ora, un colloquio di Rosella Sensi a Trigoria con Totti e De Rossi, segno che insomma non tutto è ancora andato a posto nei rapporti tra questi due giocatori e il loro allenatore Ranieri. Ieri, dopo un lungo faccia a faccia tra Totti e Ranieri, sentiamo che cosa ha dichiarato il capitano. Sinceramente un po' mi è dispiaciuto, perché entrare 4 minuti alla fine così come se perdessimo tempo, però ho accettato questo, ho accettato la panchina, ho accettato di giocare, accetto tutto, cioè io sto totalmente a disposizione della società e del mister. Sì, ho parlato sia con Montali, Bruno Conti e Prate prima di parlare con il mister. Abbiamo fatto un discorso generale, abbiamo parlato un po' di tutto quello che è successo e quello che succederà. Pensiamo adesso, poi si vedrà. Ho detto solo la scorsa settimana che sono triste solo quando entro dentro Trigoria, poi quando sto fuori sto benissimo. Beh, insomma, però non è poco, insomma, perché la tristezza del luogo di lavoro è un vecchio vecchio classico. Insomma, io credo che entrare a Mirafiori, ecco, giusto per restare sull'attualità di questi giorni, non sia mai un momento di grandissima allegria, ma non oggi, credo che storicamente non possa anche non esserlo. Il momento dell'ingresso in ufficio è certamente un momento più difficile per tutti noi rispetto a quello rispetto al momento in cui se ne esce. Ma entrare a Trigoria, cioè entrare ad allenarsi, entrare a fare un'attività molto più giocosa e molto più divertente e entrarci con tristezza, beh, insomma, questa è una brutta spia che riguarda, insomma, è una considerazione amara che Totti evidentemente ha fatto e che ne sottende altre. Spalletti è sceso in campo anche su questo argomento, o meglio non è affatto sceso in campo perché molto semplicemente attualmente è in vacanza, perché la sua squadra ha vinto il campionato russo, l'ha vinto non bene ma benissimo, e sta trascorrendo un periodo di vacanza italiana e ovviamente si guarda intorno rispetto a quello che sta accadendo da noi. Sentiamo che cosa ha detto proprio sulla vicenda Totti. Bisogna stare attenti, perché a pensare Totti un calciatore finito bisogna andarci molto piano, perché secondo me ha le qualità, i numeri per poter dare ancora qualcosa di suo al nostro calcio per diversi anni. Io penso che Totti rimarrà e concluderà la carriera a Roma, anche perché lui ha a cuore la situazione della Roma e penso, per quello che ho letto, gli sia stato fatto un contratto anche in funzione di un futuro proprio di uomo immagine, per cui non vedo perché dovrebbe andare via dalla Roma. Era un bel po' che non si sentiva Spalletti intervenire su temi del calcio italiano, l'ha fatto anche su un altro argomento particolarmente interessante, cioè sul passaggio di Leonardo dall'una all'altra panchina milanese, ma in particolare sul suo approdo all'Inter. E questo è ancora più interessante se si pensa che forse proprio Spalletti era stata la prima scelta dell'Inter al momento di una volta presa la decisione di liberarsi di di Benitez. C'era però per l'appunto il problema che, Spalletti è legato allo Zenit, che non aveva intenzione di considerare già conclusa la sua avventura russa, vista la brillantezza, no? I risultati con cui si è aperta in questa prima stagione, e quindi l'Inter, diciamo pure che ha ripiegato su Leonardo. Sentiamo adesso che cosa Spalletti pensa di questa avventura nerazzurra proprio di Leonardo. Secondo me è stata una scelta giusta da parte di Moratti, perché Leonardo fa parte di quei personaggi poi che hanno quelle qualità di saper stare dentro gli spogliatoi, perché anche da calciatore era un calciatore che aveva qualità, ma allo stesso tempo un ragazzo molto modesto, molto equilibrato, che ha sempre saputo quello che diceva, ha sempre fatto vedere di essere poi una persona sveglia. A me piace moltissimo Leonardo e mi sembra che abbia anche delle idee. Io da un punto di vista di lavoro non lo conosco, però era apprezzatissimo nello spogliatoio del Milan. È stato apprezzato quando è arrivato nello spogliatoio dell'Inter, per cui poi nel calcio le cose si sanno, e il fatto che i ragazzi siano contenti è un dato di fatto da tenerne di conto, e infatti anche i risultati poi vanno in quella direzione lì. Si allungano, informa un'agenzia, i tempi di recupero di Balotelli. Per almeno un mese il Manchester City dovrà fare a meno del giocatore italiano, ma non è escluso nemmeno un altro intervento chirurgico. Il problema è un'infiammazione al menisco del ginocchio destro, che si è rimanifestato dopo la prima tripletta inglese di Balotelli il 28 dicembre con l'Aston Villa. Era sembrato un normale affaticamento, ma invece non c'è verso di uscirne. E quindi tra un mese circa di trattamenti fisioterapici, riposo e altre pratiche non invasive, si deciderà se eventualmente riintervenire su Balotelli. Dico riintervenire perché è lo stesso ginocchio operato a inizio stagione che era costato a Balotelli due mesi di campionato. Questo per dire che probabilmente anche altrove la certezza delle diagnosi e delle prognosi da parte dei medici sportivi, insomma, qualche dubbio lo può lasciare, perché anche in questo caso mi pare che si stia perdendo un tantino di tempo. Poi ci sono le vigilie di Coppa Italia. Stasera si gioca a San Siro Inter-Genoa, in precedenza Palermo-Chievo, domani sarà il turno della Juventus con il Catania. In tutto questo potremo sentire la vigilia di Ballardini, in particolare, che parla di questa sfida di stasera sul campo dell'Inter, certamente non facile, ma anche del passaggio di Ranocchia dalla maglia genoana a quella interista. Faremo i cambi necessari perché abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di riposare, e nello stesso tempo cercheremo di mandare in campo una squadra che sia competitiva. Mi aspetto un Inter forte, perché comunque sono sempre forti qualsiasi squadra mettano in campo, ma cercheremo di fare una buona partita, perché è necessario fare una buona partita. Doveva rimanere qua così magari giocava di più. Niente, comunque è un ragazzo che è talmente bravo come ragazzo e talmente bravo come giocatore che anche lì prima o poi troverà lo spazio che merita. E questo è l'augurio per l'appunto di Ballardini, il suo ex allenatore, sia pure per breve tempo, a Ranocchia. Vi ripeto il programma: il Genoa Inter-Genoa stasera insieme a Palermo-Chievo, domani il turno di Juventus-Catania, le altre partite in calendario la prossima settimana, a cominciare dal derby di Roma, a cominciare da un Roma-Lazio che tra l'altro vedrà una curiosa restrizione per il pubblico, di cui parleremo tra poco proprio con Marco Bellinazzo. Adesso intervallo per strade e autostrade. Sì, siamo già tornati in onda, scusate, stavo accogliendo dal piano superiore, quello del Sole 24 Ore, come vi ho anticipato, Marco Bellinazzo. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Mi pare di dover partire dal problema del fair play finanziario. Sarai tu ovviamente a raccontarci e a commentare insieme quello che è accaduto ieri a Nyon. Io da canto mio posso dichiararmi abbastanza sorpreso, perché non è accaduto niente di significativo. in termini appunto sempre di fair play finanziario ed economico, ma quel poco che si è saputo segnala che non si sta andando avanti, ma forse si sta cominciando a fare qualche pericoloso passo indietro, o no? Allora Gigi, io partirei da questa considerazione. Io non so il fair play finanziario dove porterà il calcio europeo da qui a qualche anno. So che porterà Michel Platini alla presidenza della UEFA e probabilmente a succedere a Blatter alla presidenza della FIFA. Quindi tenderei innanzitutto a sgombrare il campo dai facili entusiasmi e dall'eccessivo clamore che questa vicenda, insomma, del fair play finanziario ha destato finora. Non perché non sia in atto un percorso serio, ma perché ricordiamo che già un anno e mezzo fa, due anni fa, si doveva intervenire in maniera drastica e con un piano abbastanza concreto, e poi quando gli impegni sono diventati più vicini si è deciso di allontanare un po' le scadenze. Il fair play finanziario, cioè la regola per cui si deve spendere solo ciò che si incassa, entrerà in vigore in quanto tale soltanto a partire dall'anno 2017-2018, quindi insomma abbastanza in là. Si inizia però un percorso di morigeratezza nei bilanci, lo abbiamo raccontato più volte. Certo. Si dovrà stare attenti alle spese finora fatte con eccessiva facilità da determinate proprietà in Italia e non solo in Italia, e si dovrà invece puntare su spese virtuose, in primo luogo l'acquisto degli stadi, la costruzione degli stadi. Il primo controllo che è stato fatto dalla UEFA e reso noto ieri è un controllo che si riferisce ai bilanci chiusi nell'anno 2009, quindi non ad un periodo recentissimo dal punto di vista dei conti delle società. Però è indicativo perché rispetto all'anno prima notiamo che il rosso, le perdite realizzate dalle società dei principali campionati europei, è raddoppiato. Nel 2008 era di 700 milioni, nel 2009 è di 1,2 miliardi. Hai detto niente? Mi pare che appunto è iniziato un percorso virtuale, allora, non virtuoso al momento. In questa, quel mio richiamo ad essere attenti, a non lasciarsi fregare dai proclami, nasce proprio da questa considerazione, perché questo dato, cioè il fatto che nonostante già da due anni e più si parla di fair play finanziario e i conti continuano a peggiorare, può significare due cose. Uno, che le società non hanno accolto il segnale, quindi in qualche modo procedono su quella che era la vecchia cattiva abitudine di spendere e espandere come vogliono, ovviamente quello che possono permetterselo. Oppure può essere significativo di un'altra tendenza, cioè finché le regole del fair play finanziario non entreranno in vigore, allora chi può ha speso per conquistarsi una sorta di vantaggio competitivo, perché il rischio del fair play finanziario è quello di cristallizzare l'attuale situazione. Certo. Per cui chi ha i campioni continua a tenerseli perché ha anche grossi fatturati che permettono di pagare gli stipendi a questi giocatori di prima fascia. Chi non li ha non potrà mai conquistarli, perché in qualche modo le vittorie sono quelle che pagano in termini di diritti televisivi, in termini di sponsor, in termini di accordi, certo, commerciali. Sì, può anche essere quello che dici tu, certamente è vero. È anche vero che forse non è allora un fenomeno soltanto italiano, ma è un fenomeno europeo e magari mondiale, quello per cui se si indica una scadenza lontana, dicendo nel frattempo ci si mette in regola o ci si mette a posto o si comincia a tener conto di quella scadenza, in realtà non funziona tanto così. Lo dico perché ricordo che tutto nacque, perlomeno da un punto di vista di impatto mediatico, dopo una finale di Coppa Campioni di del 2008, perfetto, in cui Platini il giorno dopo molto, molto duramente disse: sarei un po' stufo io di premiare delle squadre che tecnicamente sono fallite, delle società che tecnicamente sono fallite, e ce l'aveva col Manchester United, credo, e il Chelsea, che aveva giocato quella finale. Ora, il fatto che a due anni e mezzo di distanza, dopo tante iniziative caldeggiate dagli stessi presidenti e dirigenti di tutte queste società europee, il rosso, come tu ci hai spiegato prima, non solo non si sia ridotto, ma si è raddoppiato. Ha portato Platini a dire ieri, per esempio, a Nyon, nella sua conferenza stampa finale, dice: dov'è la moralità se chi vince è quasi sempre sopra le regole e sopra le leggi? Noi adesso mettiamo delle regole e indietro non torniamo di sicuro. Però è il discorso di 2 anni e mezzo fa. I proclami servono per fare politica ed è quello che Platini sta facendo. Lo ripeto, certo, perché lo stesso programma, lo stesso calendario che è stato indicato ieri a Nyon, che era stato di fatto già varato a giugno scorso, quando il regolamento sul fair play finanziario è stato approvato dalla UEFA, è un calendario non solo molto esteso, come abbiamo detto, si parla del 2017-2018 come momento in cui si dovrà rispettare questa regola dell'1-1, un euro incassato, un euro speso, ma è anche un po' vago nel definire il percorso di avvicinamento. Si parla di trienni di spesa che dovranno per esempio non superare inizialmente nel complesso i 45 milioni di euro e poi 30, che possono essere ripianati con una donazione ma non con un prestito. Si parla poi appunto di sanzioni a partire dalla stagione 2014-2015 che possono portare all'esclusione dalle competizioni europee dei club più indebitati. Si parla di valutazioni, c'è un panel di controllo di esperti e tecnici che è stato già nominato e che dovrà fare questi controlli, ma il problema alla base è un altro, cioè non ci si è ancora messi d'accordo effettivamente sulle regole da applicare, perché ci sono grosse disomogeneità che potrebbero tra l'altro penalizzare proprio i club italiani, e si è rimasti anche un po' vago sulla graduazione delle sanzioni, perché sì, l'esclusione dalle coppe europee è soltanto l'ultima delle sanzioni. Quindi ho l'impressione che, dettati i principi, le società si sono dette d'accordo con l'ECA, che è presieduta da Carles Heinz Rummenigge, quindi da un altro grande calciatore degli anni Ottanta che sta facendo un po' da sparring partner in questa fase a Platini, sono d'accordo, dicevo, però evidentemente sul processo di avvicinamento invece si è tutt'altro che d'accordo, e non vorrei che questo portasse da qui a qualche anno a un ulteriore slittamento del calendario. Certo. Michele da Valenza domanda: quali sono le squadre che si dovrebbero preoccupare? Io ovviamente la domanda la giro a te. Ho notato però stamane, scorrendo i giornali, che 11 società sarebbero state indicate, non da Platini ma dal segretario generale della UEFA, in questo momento come da escludere dalle coppe europee, cioè non sarebbero state ammesse in base ai parametri futuri. A Nyon doveva essere indicato, reso noto appunto, una sorta di elenco buoni e dei cattivi, questo si temeva, e il fatto che non sia stato reso noto, come in qualche modo annunciato, getta un'ombra insomma sulla credibilità di tutto il sistema. Getta un'ombra, o non è invece un segnale di prudenza per evitare i fondi, dato che i buoni sarebbero pochissimi, ho l'impressione. I buoni soprattutto sarebbero tutti quelli che non hanno vinto i campionati nei principali paesi europei negli ultimi 2 o 3 anni, perché tutte queste squadre sono oggettivamente non in regola con le regole e i criteri fin qui noti del fair play finanziario. In particolare Real Madrid, Barcellona, per quanto abbiano fatturati molto alti, hanno anche debiti molto alti. Certo, riescono, come dire, a contenere quelli che sono i risultati di esercizio con perdite molto basse, quindi al di sotto di questa soglia dei 45 milioni di cui si è parlato, ma chiaramente non sono l'esempio di gestioni equilibrate dal punto di vista economico, certo, e finanziario. Per non parlare delle situazioni di Milan e Inter, che tra l'altro ne è un esempio anche l'attenta oculata, e uso un eufemismo, campagna acquisti dell'Inter di questa estate, nella prova, si trovano ben al di là di queste regole, di questi parametri, anche perché l'esempio classico che è da cartellino rosso per Platini è il classico assegno staccato dal patron Moratti o da Berlusconi quando staccava da Abramovic, certo, per ripianare le perdite. Ecco, certo, quello non sarà più ammesso, perché è considerata una sorta di capitalizzazione irregolare, che tra l'altro, come dicevo, per quelle regole non omogenee che ancora non sono state appianate tra una legislazione e l'altra, in Italia c'è un obbligo di ricapitalizzare quando ci sono perdite che portano il capitale della società al di sotto di un certo livello. Ora, che succede in quei casi? Si viola la normativa italiana oppure si ricapitalizza e si esce dalle coppe europee? Questo per esempio è un interrogativo che la UEFA NIO non ha voluto risolvere. Eh sì, e che prima o poi, insomma, dopo 2 anni e mezzo appunto dal varo di questa operazione fair play, avrebbe già dovuto probabilmente essere varata. Per rispondere a questo ascoltatore, la risposta non la si può dare perché non si può dire chi è messo peggio in Europa, si può dire che, perché sennò cominciamo con Barcellona, Real Madrid, cioè ne mettiamo Inter, Milan, l'avete sentito, e andremo avanti. Beh, in Inghilterra non stanno messi bene, diciamo che in Germania abbiamo invece sì, degli esempi virtuosi, ma l'abbiamo detto certo, più volte. In ogni caso, per dare due cifre di quelle che sono venute fuori ieri a Nyon, sì, e per dare appunto conto di quello che è il trend generalizzato, possiamo dire che nel 2008 erano 47 i club delle massime divisioni che erano con i conti in rosso, con l'esercizio chiuso in perdita. Sono invece il 56% del totale nel 2009. Sempre nel 2008 i ricavi erano stati di 11,5 miliardi nel complesso, ora poi mi spiegheranno come li hanno calcolati, ma è il trend che importa qui, ora al di là della precisione, sono stati più o meno di 11,7 miliardi nel 2009, quindi sono rimasti invariati. Le perdite invece sono salite da 12 miliardi a 12 miliardi e 9, quindi a 13 miliardi. È chiaro che in questo modo è evidente che c'è una incapacità di gestire i club in maniera sana dal punto di vista finanziario e patrimoniale. Ora io mi chiedo, ed è la domanda delle domande, è possibile gestire in maniera sana ed equilibrata una società di calcio, o per vincere si è necessariamente costretti ad indebitarsi e quindi a entrare nel rosso di bilancio, e quindi Platini sta facendo una battaglia giusta ma in qualche modo utopistica, o piuttosto insomma sta indicando un mondo nuovo in cui il calcio dovrà entrare, che è quello evocato, se vuoi, dal presidente del Napoli, De Laurentiis, più volte, insomma questo cambio epocale, questa rivoluzione che dovrà invertire tutti i valori. Certo. Questo è il grande interrogativo con cui ci dobbiamo confrontare, insomma, in questi mesi e nei prossimi anni. Beh, Platini non ha risposto alla data ieri, e cioè lui ha detto che i campioni dovranno arrivare ad accontentarsi di guadagnare almeno 5 volte meno di oggi. Chi oggi guadagna 15 milioni di euro l'anno dovrà pensare che, con la frase testuale sua, è chi guadagna oggi 15 milioni di euro l'anno si accontenterà di 2 o 3, che sarà sempre 20 volte quello che guadagnava Pelé. Questo in ipotesi un ritorno all'antico. Facciamo un intervallo, riprendiamo da qui, senza dimenticare, ricevo altri capitoli molto interessanti, che sono certe situazioni di steward, il richiamo del garante della privacy sulla tessera del tifoso, una discretamente incredibile vicenda che riguarda il derby Roma-Lazio della prossima settimana, varie ed eventuali. Adesso la borsa. Allora, torniamo con gli argomenti ereditati da prima. Tra l'altro c'è anche una notizia pubblicata oggi nella Gazzetta dello Sport che non c'entra col fair play finanziario, è una curiosità sugli investimenti di mercato degli ultimi anni, ma è una curiosità, diciamo, sapida, perché la Juventus, che viene accusata spesso dai suoi tifosi di non avere investito in questi anni, la Gazzetta ha preso in esame il periodo dal 2007 a oggi. Allora, dal 2007 a oggi l'Inter, che è quella che ha speso nettamente di più come sempre, ha speso 195 milioni di euro, ma la Juventus è seconda con 187 milioni. Quindi la Juventus in questi 3 anni, quasi 4, ha speso soltanto 8 milioni in meno dell'Inter. Molto staccate, 195 a 187, c'è il Milan a 138, poi il Napoli, poi la Fiorentina. Segue il gruppo, ma questo per dire, per fortuna i soldi non fanno la felicità delle squadre di calcio, nel senso che gli acquisti poi possono essere giusti o sbagliati. Ma per chiudere il discorso sul fair play finanziario, vorrei segnalare questo: tra i dati indicati ieri a Nyon c'è quello relativo al peso degli stipendi sul fatturato dei club, e mediamente è di circa il 60% in Europa, in Italia arriviamo al 72%. È chiaro che se i giocatori in qualche modo devono abituarsi all'idea di guadagnare di meno, devono essere però anche i presidenti dei club ad accettare, certo, di non poter ingaggiare certi campioni o a entrare nell'ottica di non dover offrire certe cifre, magari per scopi che con il calcio hanno poco a che vedere. Lo so, caro te, però allora arriviamo al patto d'onore tra presidenti. È una cosa di cui si parla da un centinaio d'anni circa, solo perché il calcio esiste da un centinaio d'anni, sennò se ne parlerebbe da millenni. Io la voglio vedere Florentino Perez piuttosto che uno dei nostri, per carità, o piuttosto che Abramovic. Forse questo è il motivo per cui il concetto di salary cap nel calcio viene sempre poi alla fine evocato, ma rigettato immediatamente. Arriviamo agli altri argomenti. A parte il fatto che mi segnalano dalla redazione un gran numero di richieste di ascoltatori di intervenire su questi argomenti, su queste materie, sicché ti direi, Marco, di metterti comodo, di avvisare al piano di sopra che insomma rincaserai al sole verso le 3, non prima delle 3. Grazie per questa disponibilità. E allora andiamo in ordine sparso. Vuoi cominciare da dove? Dagli steward? Perché mi pare ci siano due storie curiose di una grande e di una piccola società, diversissime tra loro, ma che danno un pochino l'idea di quanto sia ancora tutto precario, tutto avventurato, tutto italianizzato, no? questo fenomeno. Sì, il sistema sta mostrando più di una falla. Da squadre piccole come la Pro Patria, che hanno difficoltà anche a pagare quei pochi spiccioli che vengono versati agli steward, alle situazioni in cui gli stessi steward si vengono a trovare. E quando si parla spesso della distanza che c'è tra la realtà e quello che decide il mondo politico, come dire, si ha sempre la sensazione che quello che si dice non è mai corrispondente alla reale distanza. Nel senso che poco tempo fa, qualche settimana fa, è stato varato un decreto legge, poi trasformato in legge, che addirittura dovrebbe aumentare i poteri degli steward. Però io ho avuto modo di leggere delle mail o delle lettere inviate ad altri giornali, leggere nei forum, e ho letto di storie in qualche modo paradossali che fanno capire come, quando si parla di steward, di sicurezza all'interno degli stadi, chi legifera spesso non ha idea di cosa siano gli stadi. Di cos'è poi la realtà vera? Allora, mi tocca parlare di una realtà che conosco bene, che è lo Stadio San Paolo di Napoli, e ho letto, ripeto, mail che sono state inviate anche al Mattino di Napoli recentemente, di steward che lamentano, da un lato, come dire, nel caso di buona condotta, il destino ormai quasi inesorabile dopo ogni match di recarsi in infermeria a farsi curare, quando, certo, non in ospedale, perché hanno fatto il loro dovere, certo, magari per 20, 30, 40 euro, certo, a partita. Invece in altri casi, come dire, si sfrutta questo potere che si ha per concedere ingressi gratuiti o quasi a chi il biglietto non l'ha comprato o addirittura l'ha comprato da un bagarino, cosa che è doppiamente irregolare, certo, in quanto i biglietti sono nominali e il bagarinaggio dovrebbe essere definitivamente scontato, ma chiunque frequenta uno stadio sa che così non è. Così a Napoli mi raccontano, io facciamo così, non ci voglio credere che sia così, ma me lo raccontano, e quindi da cronista lo devo riportare, hanno inventato quello che ho ribattezzato il tornello tandem, cioè capita a molte persone che hanno acquistato il biglietto, che lo esibiscono e che come dire, magari hanno anche la tessera del tifoso e quindi avrebbero dovuto avere una corsia privilegiata, perché questo prevede la normativa, di trovarsi nel tornello accompagnato e spintonato con un altro che viene infilato dentro e che quindi subisce la spinta di un tifoso che, senza averne il titolo, tra l'altro con problemi non solo di sicurezza, perché non si sa chi sia quel tifoso che è entrato, certo, nello stadio, certo, in maniera irregolare, e anche con biglietti, con questioni di sicurezza generale, perché il panino si è letto, per esempio, per Napoli-Juve, che tutte le uscite di le scale, tutte le uscite di sicurezza erano completamente bloccate data l'affluenza. Ma strano. Di conseguenza le società sono come dire, costrette a subire queste situazioni, le società che sono vittima di estorsioni vere e proprie. Tra un po', tra qualche settimana, comincia un processo che riguarda il Milan, per parlare anche di altri lidi, perché è un fenomeno che riguarda, voglio dire, tante città. Come? E quindi, evidentemente, prima di pensare a rafforzare i poteri degli steward, a dargli un maggior ruolo, c'era addirittura, quando è stata varata la normativa, chi voleva dare una pistola agli steward. Meno male che per una volta il Parlamento è stato saggio e ha evitato questa sciagurata conseguenza. In ogni caso, prima, dicevo, di varare nuove regole e di rivedere il sistema, bisognerebbe farsi una passeggiata negli stadi quando c'è una partita, vedere cosa succede e poi capire se la polizia deve restare fuori o invece forse è meglio che sia ancora all'interno degli stadi. Prendiamo fiato e facciamo intervenire un paio di ascoltatori. Per esempio Alessandro da Piacenza, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo parlare sulla tessera del tifoso. Sì. Sono tifoso di una piccola squadra della mia città, Piacenza. Siamo in Serie B, ce la barcamenniamo per lottare per la salvezza. Abbiamo recentemente, sabato scorso, affrontato il Varese. Abbiamo vinto la partita che è stata sospesa per 10 minuti dall'arbitro per intemperanze dei tifosi ospiti, che poi si è scoperto essere 70 tifosi del Varese venuti a Piacenza senza tessera del tifoso e probabilmente anche senza biglietti. Fin qui corrisponde il racconto. Potrebbe essere efficace la tessera del tifoso, ma solo se chi non ce l'ha viene veramente fatto rimanere a casa. Invece, come al solito in Italia, si fa la regola bella e anche molto efficace, poi però si trasgredisce. Finché noi faremo così, probabilmente non risolveremo nessun problema. Cosa ne pensate? Grazie mille, vi ascolto per radio. Che abbiamo denunciato spesso l'incongruenza di questo sistema, cioè la tessera del tifoso serve se vuoi andare in trasferta e seguire la squadra del cuore per recarti nel settore ospite, ma in qualche modo puoi acquistare il biglietto di altri settori se non ci sono altre limitazioni, tipo la vendita del biglietto soltanto in determinate province, e quindi si possono creare condizioni molto pericolose di tifosi sparsi all'interno degli stessi settori delle due squadre avversarie, come spesso accaduto. Per fortuna non ci sono stati certo, clamorosi incidenti e casi che hanno fatto venire a galla questo problema, ma è un problema che esiste ed è noto anche al Viminale. A proposito di tessere del tifoso, sempre dalla Gazzetta dello Sport di oggi, ricavo che il pubblico di Serie A finora è esattamente lo stesso dello scorso anno, e cioè a fine girone d'andata c'è una media a partita di 23.092 spettatori contro i 23.084 del 2009, quindi sono aumentati di 8, diciamo. Il che significa, da un lato, che è rassicurante che la entrata in vigore sempre più convinta della tessera del tifoso non abbia favorito la fuga dagli stadi che alcuni, a cominciare dagli ultras, temevano o comunque caldeggiavano, forse nel loro caso, no? per contrastare. Ma è anche vero, vista dall'altra angolazione, che non ha riportato allo stadio, cioè che non ha funzionato evidentemente né da deterrente né da rassicurazione per il resto del pubblico, tanto è vero che è rimasta invariata. La situazione è quella dell'anno scorso, in B credo sia invece molto peggiorata sì, sì. E quindi il saldo è credo negativo. Certo. Sentiamo Cosimo, ha chiamato da Matera, buongiorno. Buongiorno Garantini, complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedere cosa ne pensate voi sull'opportunità reale del salary cap e del fair play finanziario. Mi spiego meglio. Togliere la possibilità al presidente, al patron, di ripianare è contro parecchie leggi di parecchie attività economiche. Per esempio Soros si è comprato l'unità in perdita, si fanno e lo comprano perché ha un altro obiettivo. L'RCS viene acquistata in borsa nonostante chiude in perdita, cioè la liberalità economica è anche rappresentata da tenere una divisione in perdita ricapitalizzando. L'importante è non indebitarmi, ma garantendo la ricapitalizzazione posso essere libero di tenere una squadra di calcio? Volevo sapere cosa ne pensaste. Adesso, buongiorno. Adesso quello che è più significativo di gran lunga è quello che pensa Marco Bellinazzo, che le risponderà tra un attimo. Io le dico però questo. Quando si fa parte di un club, si fa parte di un organismo, si fa parte di un gioco, si accettano anche altre regole. Intendo dire che non so, lo so che è una butade, però c'è anche il fuorigioco a giocare a pallone, no? che non è contemplato dal codice della strada. Non è che posso, se uno mi fischia un fuorigioco perché sono solo davanti alla porta e non ci sono due uomini tra me e la linea, ma ce n'è uno soltanto, io non è che mi posso appellare al codice della strada dicendo che arrivavo da destra e che ho messo la freccia. Non, cioè, questa è un'altra storia. Questo è un gioco, questo è l'ingresso, no? in un club che ha delle sue regole specifiche, poi che non possano entro certi limiti essere in contrasto con i diritti costituzionali innanzitutto e poi con le principali leggi quadro è un conto, ma che ci sia una specificità mi sembra inevitabile. Marco, c'è un obiettivo nel fair play finanziario che a mio avviso va condiviso e sostenuto, e in qualche modo ieri è uscito fuori dalla riunione di Nyon. Si vuole cioè evitare col fair play finanziario che alcuni personaggi, e ci sono stati casi sventati in qualche maniera in Italia recentemente, possano acquisire dei club, indebitare questi club, nel senso di far sì che siano sempre in rosso e quindi acquistare giocatori senza alcun criterio finanziario e poi abbandonarli alla propria sorte. Certo. In questo modo col fair play finanziario si dovrebbe porre una barriera garantendo che il club abbia una sua autonomia finanziaria di entrate e uscite. Questo è secondo me il principio che va sostenuto e va rafforzato del fair play finanziario. Quello che mi rende scettico sulle modalità applicative del fair play è il fatto che non tutte le regole sono chiare e soprattutto il fatto che non tutte le regole sono uguali per tutti i protagonisti. Per esempio, i contributi che annualmente i soci azionisti di Real Madrid e Barcellona danno ai propri club non rappresentano, secondo la visione della UEFA, una forma di ricapitalizzazione e dunque sono ammesse. Mentre se domani mattina Moratti o Berlusconi o De Laurentiis decidessero di mettere soldi propri nelle società, pur essendone i proprietari, dovrebbero scontrarsi con i principi del fair play finanziario che impediscono questa forma di ricapitalizzazione. È indubbiamente un'altra incongruenza da risolvere, perché è vero che l'azionariato popolare, quale è quello spagnolo, è un magnifico modello societario, però è anche vero che non per questo deve dare dei diritti in più da questo punto di vista. Siamo un po' in ritardo per il traffico, sentiamo come va sulle strade. Oggi Nicola Filippone ha un problema e quindi ha affidato a me la lettura di Sembra Ieri. Ne abbiamo approfittato. Sapendo che ci sarebbe stato ospite qua, diciamo un simpatizzante napoletano, per infierire su di lui la sigla. Sembra Ieri. 12 gennaio 1986, il Pisa di Vincenzo Guerini vince 1-0 al San Paolo contro il Napoli di Maradona, grazie a un gol di un danese, Berggren, tra l'altro signor giocatore. Berggren fu il grande colpo di mercato di quell'anno del presidente Anconetani, che l'aveva portato in Italia nell'82, per la verità, pagandolo 270 milioni di lire. Quello fu l'ultimo dei suoi 29 gol con il Pisa, che proprio a Napoli vinse quella sua ultima partita di campionato, chiuso al 14° posto con la retrocessione in Serie B. Erano i tempi ancora beati in cui si giocava 16 squadre. L'anno dopo Berggren proseguì la sua avventura italiana alla Roma, dove arrivò come sostituto di Sareso, e successivamente al Torino, prima del ritorno in patria al Lyngby, il club che lo aveva lanciato a metà degli anni 70. Chiuso questo Amarcord, torniamo alla tessera del tifoso ancora, chiedendo un attimo di pazienza a questi tre amici collegati già da Sassari, da Roma e da Treviso, perché stamane c'è stato, Marco, un richiamo del garante della privacy a proposito della tessera del tifoso, a tutela, diciamo pure, di quelli che l'hanno contratta. Verrebbe da dire finalmente, visto che siamo alla fine del girone di andata, certo. Ma in ogni caso il garante ha voluto tutelare chi ha la tessera del tifoso, in quanto non solo la tessera del tifoso garantisce l'accesso agli stadi per i tifosi virtuosi, ma spesso come chi ce l'ha può constatare, ha tutta una serie di vantaggi e di servizi di tipo commerciale, è una sorta di bancomat in alcuni casi, e quindi ha voluto il garante chiarire alle società che devono informare titolari della tessera su questo uso o utilizzo delle tessere anche a fini commerciali e far sì che venga data il consenso quando si tratta di ricevere per esempio pubblicità o altri tipi di informazioni sul telefonino o altro. Insomma, è un richiamo oggettivo che però testimonia come questo strumento sia ibrido alla fine, perché se doveva servire a tenere lontano, certo, i facinorosi dagli stadi, certo, poi viene usato a fini commerciali, può essere legittimo, ma almeno che lo si dica. Ecco, questo è il richiamo del garante della privacy. Ma mi pare, sì, magari tardivo, però sacrosanto, perché insomma, il profumo di commerci che emana da quella testa del tifoso non è da oggi. Stefano ha chiamato da Sassari, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una piccola osservazione, perché quando si parla di queste cose si fa spesso, come posso dire, demagogia, è un brutto termine, però è così. Cioè, in realtà lo sport dovrebbe prescindere da alcune regole, però una volta che sono state poste delle condizioni economiche allo sport professionistico, tutti le dovrebbero rispettare. Io credo che voi avete partito in 2 o 3 anni. Io posso dire con tutta tranquillità che forse negli ultimi 40 anni le squadre che hanno vinto erano sempre fuori standard. Forse la vituperata Juventus è stata l'unica squadra che aveva dei bilanci ottimi, dove la famiglia Agnelli non metteva una lira e vinceva sempre. Ma a parte questo, voi avete parlato di varie squadre di vari stati, cioè, non esiste una normativa unica, non so come si possano equiparare pere e mele. Io penso semplicemente una cosa, che chi sta fuori regola, e qui parlo di Roma, Lazio, i famosi debiti verso lo Stato, dei contributi eccetera eccetera, sarebbero dovute essere radiate dal calcio, e così tutte quante le squadre che non hanno rispettato le regole. Questo per me è sport, il resto sono buffonate di politici che fanno, sì, il club calcio da qualche parte, ecco, sì, questo è il concetto. Sì, con un pizzico di, perché lei ha debuttato dicendo che era demagogia e poi ha virato verso un giustizialismo juventino, mi pare d'aver, no? D'aver capito, perché in quegli anni in cui i bilanci quadravano c'era qualcos'altro che non quadrava, no? A dispetto delle vittorie, o meglio, le vittorie arrivavano anche grazie, diciamo, degli additivi che non c'entravano col bilancio. Prego, e c'erano spesso delle plusvalenze che poi bisognava spiegare, ma guardando al futuro, quello che si pretende nel momento in cui si parla di fair play finanziario è che ci siano, ripetiamo fino alla nausea, ma è fondamentale a questo punto, visto che siamo alla svolta per il mondo del calcio in Italia e in Europa, le regole, se vengono applicate, se vengono accettate, devono essere uguali per tutti, si devono trovare delle formule, dei principi coerenti che in qualche modo avvicinino le diverse legislazioni e garantire a tutti eque condizioni di partenza. A quel punto il fair play finanziario avrà un senso, altrimenti rischia di essere semplicemente un modello per cristallizzare l'attuale situazione. Certo, io mentre do la linea a Francesco da Roma, adesso un istante solo, io passerei a Marco Bellinazzo una documentazione, insomma, appena arrivata stamane, sulle modalità di vendita dei biglietti per Roma-Lazio del derby del prossimo 19 gennaio 20:45, derby di Coppa Italia, perché c'è la chiusura della tribuna Tevere alla vendita al pubblico e sarà riservata invece a non deambulanti e invalidi con accompagnatore. Allora, bellissima iniziativa, su questo non si discute, ma nell'ambito della definizione di un derby della legalità, in seguito a un'osservazione del CASMS, insomma, io trovo che si fa sempre un pochino più di fatica, no? A star dietro a queste delibere, a queste iniziative, perché per carità, questa ripeto, ha anche una finalità lodevole, però stiamo parlando di un derby, stiamo parlando di una tribuna imponente come la Tevere. Allora, in questo caso la tribuna di fronte diventa non agibile per il pubblico per ragioni di sicurezza e riciclata in questa maniera. La tribuna di fronte di Trieste, che sappiamo che è una rappresentazione di cartonata, no? di persone in realtà che non ci sono. Cosa significa tutto questo? Beh, in questa confusione anche le iniziative più lodevoli, come tu hai detto, rischiano di perdere di senso. Si fa dello sport professionistico anche per avere degli incassi, e questa era un'ottima occasione per le due squadre, per particolare per la Roma che ospita il match, per fare dei buoni incassi, immagino. Se si vogliono prendere queste iniziative, e tra l'altro la Roma, come dire, tanta beneficenza non ne può fare vista la sua situazione economica, e non so cosa ne penserà Unicredit, ma in ogni caso, se guardiamo all'iniziativa in sé, mi sembra apprezzabile la sua collocazione, la sua spiegazione anche legata alle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, mi sembra un po' pasticciata, però insomma. 20 secondi, Francesco, da Roma. L'incasso della Coppa Italia viene diviso tra i tra le due società. Volevo parlare del calendario internazionale. Sì. Unire un po' la proposta Platini con la mozione Tavelli. Avvio dei campionati a febbraio, sosta a giugno, giugno fino a metà luglio. Ovviamente d'estate si gioca in notturna e i giornali non saranno sicuramente contenti. Ripresa a metà luglio, primi d'agosto, chiusura a ottobre prima quindicina di novembre, le coppe rimangono uguali. Nel periodo di gennaio tanto si gioca la Coppa d'Africa, mentre d'estate si gioca la Coppa America. Fondamentale però campionati come Spagna, Italia e Francia, che ce n'hanno, e Inghilterra, 20 squadre ridotte a 18, e sicuramente le TV non saranno. Erano 20 secondi, Francesco, la prego. È una proposta interessantissima. Domani ci torniamo, anzi, la richiamiamo proprio per dettagliare un pochino di più la cosa. Grazie allora a Marco Beninazio. Il tempo è volato davvero, come sempre in questi casi. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio.